benvenuti a tutti, nuovo appuntamento con NBA Week, la trasmissione settimanale in podcast sulla stagione NBA 2017-2018 per Radio Big World. Allora, eravamo rimasti alle prime due gare di entrambe le finali di conference, sia ad est che ad ovest, e la prospettiva era quella di cambiare campo con un'inerzia apparentemente schierata a favore di Boston da una parte ed un equilibrio sostanziale tra Houston e Golden State dall'altra. I Rockets avevano dimostrato di poter tornare a vincere tra le mura amiche contro Durant e compagni, giocando il più possibile in modo corale, basando la manovra offensiva maggiormente sulla circolazione di palla e sfruttando una serata al tiro non proprio da sogno per i ragazzi di Steve Kerr. Allo stesso modo, i ragazzi di Brad Stevens avevano sotterrato LeBron ed un supporting apparso ancora una volta scollegato dalle velleità del proprio re, giocando di squadra ed utilizzando le ripartenze figlie di un ottimo lavoro difensivo per creare parziali decisivi. Un po' la stessa tattica utilizzata con successo dagli Warriors in gara 1, dove una difesa corale impegnata a limitare il contorno ad un Harden realizzativamente stellare serviva a ripartire con entusiasmo punendo gli avversari con soluzioni offensive pulite figlie di una circolazione di palla scientifica. Era chiaro a tutti però che al cambiar di sfondo sarebbero potuti cambiare gli equilibri in campo in entrambe le serie, e se ad ovest gara 3 rappresentava decisamente la sfida della svolta rispetto a quale delle due squadre sarebbe passata in vantaggio nella serie, per Cleveland andar sotto 3-0 sarebbe stato letale, tanto che le spalle del gruppo erano decisamente al muro. Vincere per sopravvivere, per recuperare morale, per provare a svoltare la serie era decisamente l'imperativo. Personalmente, guardando alla gara della Oracle Arena, mai mi sarei aspettato una Houston così distante dalle capacità e dall'entusiasmo della squadra di casa. I Rockets appaiono da subito a giocare una sfida diversa, più lenta e decisamente con un approccio totalmente rinunciatario rispetto al ritmo di Golden State, e la carneficina viene servita su un piatto d'argento. Il risultato finale è di 126-85 per la squadra di casa, e malgrado Harden e compagnia provino a restare incollati alla gara fino alla metà del terzo quarto, la sensazione di un'autentica imbarcata è viva e vegeta fin dalle prime giocate. In un modo o nell'altro, gara 3 in Ohio si struttura alla stessa maniera a livello di storia. Cleveland la domina per 116-85, pur prediligendo di sfuggire immediatamente in un primo quarto finito 32-17 e amministrando in seguito. Partire forte utilizzando il pubblico amico per intimorire l'avversario è tattica prediletta da LeBron e compagnia, che apparentemente soffrono molto di più i finali in volata, dove o il 23 trova le soluzioni in isolamento per mantenersi in scia ed operare sorpassi, oppure la gara è destinata a scivolar via, e decisamente i pessimi avvii dai quali raramente riescono a risollevarsi, vedi gara 1 al TD Garden. Onestamente fa quasi strano dire che Cleveland ha difeso su Boston, tanto da riuscire a recuperare terreno in gara 3 portandosi sul 2-1. Diciamo però che i Celtics si sono trovati in una serata di tiro non esattamente entusiasmante, con 39% da campo e 27% da 3, che la proverbiale coralità dei ragazzi di Brad Stevens ha fatto un po' acqua nell'efficacia, con il solo Jason Tatum capace di ergersi sugli altri con 18 punti e 6 su 10 al tiro, e quindi che probabilmente dopo le prime due ottime vittorie, complice la sfida in trasferta e la determinazione degli avversari, Boston ha deciso di prendersi un giro di pausa. Una cosa piuttosto pericolosa in verità, considerando che un'iniezione di fiducia come quella avvenuta tra i Cavaliers è apparsa subito capace di confermare un'inerzia pesantemente spostata in previsione anche per la seguente gara 4, e che per i Celtics tornare al Garden sul 2-2 non era esattamente l'ideale. Anche perché per quanto la propria casa apparisse inviolabile, giocare contro la squadra di LeBron con le statistiche a favore è esattamente la condizione in cui è più probabile lasciarci sorprendentemente le penne, almeno così la pensavamo un po' tutti, diciamo in questa maniera. In ogni modo, Cleveland appare finalmente una squadra, almeno a guardare i risultati statistici di gara 3 ovviamente, con il quintetto capace di chiudere in doppia cifra, 14 punti di Korver dalla panchina ed 8 di un redivivo Larry Nance Jr. LeBron chiude con 27 punti, 12 assist, 5 rimbalzi, 2 recuperi e 2 stoppate, e si tiene il partitone mostruoso per gara 4, dove concluderà con 44 punti, riportando infatti la serie in parità prima del ritorno in Massachusetts. La quarta sfida tra le due squadre si chiude 111-102 per i Cavs, con un 34-18 nel primo quarto che sostanzialmente traccia una distanza mai recuperata, seppur Boston risponda con 35 punti nel secondo, subendone comunque 34 e chiudendo con la bellezza di 68 punti incassati prima della pausa lunga. James chiude con uno stratosferico 17 su 28 al tiro, tamponando il pessimo 3 su 12 di Kevin Love, aiutato dalla doppia-doppia in materia di punti e rimbalzi di un Tristan Thompson ancora una volta chiave per il successo della squadra, ed ottenendo prezioso aiuto da Korver e Nance ancora una volta provenienti dalla panchina. I Celtics affogano così, malgrado una prestazione tutto sommato positiva, di tutto il quintetto, con un Jalen Brown da 25 punti, confermandosi però squadra con notevoli difficoltà nel trovare il risultato in trasferta. Decisiva, quindi, la quinta partita, come ampiamente previsto, in una serie dove è necessario un colpo esterno per evitare di raggiungere gara 7 e dove, eventualmente, i Celtics potrebbero comunque sfruttare un vantaggio campo importante. Nelle prime 4 gare della serie, nessuna partita si era conclusa in volata, o quantomeno con le due squadre ravvicinate a battagliarsi nell'ultimo quarto, in una situazione sostanzialmente ideale per la grandezza del go-to guy per eccellenza, che sarebbe LeBron James. La sensazione era proprio che un destino simile sarebbe toccato a gara 5 e che, in caso di vittoria esterna, i Cavaliers avrebbero potuto concludere in 6 partite con la sfida alla Quick Lounge Arena questa serie. Queste erano le sensazioni, ovviamente, al momento. Voi sapete benissimo che le cose sono andate un tantino diversamente. Una questione comunque, quella dei parziali capaci di uccidere il match molto prima delle battute finali, di stretta attualità anche ad Ovest, dove, come abbiamo già anticipato, Golden State si è ripresa il vantaggio della serie alla Oracle, distruggendo decisamente Houston grazie all'attesissima superprova di Stephen Curry. La point guard di Golden State è definitivamente tornata senza alcun dubbio, chiudendo con 35 punti e 5 triple e mostrando una volta di più la sua efficacia offensiva, anche a prescindere dai clamorosi canestri da 3 che ne hanno caratterizzato il mito. Chiaramente, con la concentrazione di Houston ad evitare i suoi canestri pesanti ed una difesa faccia a faccia spesso attaccatissima al suo corpo e alla palla, con continui cambi sui blocchi, la capacità di ball handling e di dribbling di Steph, seppur non a velocità supersoniche, diventano decisive per zingarate al ferro, molto spesso concluse con autentici circus shot di successo. Houston è apparsa ancora una volta, come in gara 1, incapace di rispondere alle molteplici soluzioni di un organico decisamente imbattibile per 4 volte in 7 partite. Almeno così appare, con un Draymond Green ancora una volta strepitoso, stavolta da 17 rimbalzi totali, ed un Durant che, seppur invisibile, chiude comunque gara 3 con 25 punti. E quindi tutto il mondo era giunto alla conclusione che i Warriors avrebbero avuto la possibilità di arrivare in finale dopo 5 partite, che forse gara 2 era stata semplicemente un giro di riposo, un episodio, che il risultato di gara 3 sarebbe stato replicato ampiamente in gara 4. Ma la pallacanestro è uno sport spesso imprevedibile, e lo dimostro ulteriormente laddove al momento la faccenda appare più scontata che mai, e cioè sul principio per cui i Warriors sono la miglior squadra del mondo. Infatti, in gara 4, clamorosa vittoria di Houston, che pareggia la serie sul 2-2 con un 95-92, capace di violare la Oracle Arena dopo 16 vittorie consecutive della squadra di casa. In una gara tirata, partita malissimo per i Rockets, la differenza la fanno le due stelle, che si dividono equamente il palcoscenico. Nei primi due quarti ci sono 24 punti di James Harden, che chiuderà con 30. Nelle fasi decisive, le giocate fondamentali sono responsabilità di Chris Paul, capace di terminare con 27 punti e 5 su 9 da 3, oltre ad un paio di gestioni della palla nel finale assolutamente devastanti. Tucker e Capela fanno la voce grossa sotto le plance, con rispettivamente 16 e 13 rimbalzi nella partita, mentre Golden State paga un ultimo quarto dove si trova tremendamente recuperata, dove i tiri per mantenersi in vantaggio escono a fronte di canestri pesanti degli avversari, compreso l'ultimo disperato tentativo di Stephen Curry, probabilmente fuori tempo massimo, per impattare la sfida. Curry chiude con 6 triple e 28 punti, Durant con 27, ma il risultato è tremendamente scioccante per i ragazzi di Steve Kerr, privati di Iguodala per questa sfida, visto che in linea molto teorica l'inerzia della serie passa in questa maniera dalla parte di Houston, con gara 5 in casa, la possibilità di portarsi in vantaggio ad un match point dalla finale dopo essere risorti sulle proprie cenere laddove in pochissimi avevano il coraggio di prevederlo. A differenza della finale della Eastern Conference, qui il vantaggio campo non sta rappresentando un fattore ad oggi, e questo dovrebbe limitare comunque l'ansia di Golden State, ma la serie ad ovest appare apertissima dopo le prime 4 partite. Ovviamente voi che ascolterete questo podcast dopo il risultato di gara 5 tra Golden State e Houston, ovviamente saprete già quale delle due squadre è destinata a giocarsi il primo match point per le finals. Noi stiamo registrando di giovedì pomeriggio e ne siamo al momento all'oscuro. Sappiamo però cosa è successo al TD Garden e quale delle due ad est ha conquistato il vantaggio della serie. Il copione che vorrebbe il vantaggio campo sempre onorato si conferma una volta di più, con Cleveland che si disintegra ulteriormente e si dimostra totalmente incapace di proporre alternative concrete al LeBron-centrismo. Contemporaneamente Boston si trasforma di fronte al sostegno del pubblico amico, trascinata da un Jason Tatum che ad oggi è il miglior giocatore di questa serie per loro, numeri alla mano ovviamente per quanto riguarda i biancoverdi, ed un Al Horford che sul parquet bostoniano ritorna ad essere guida fisica e spirituale in campo per una squadra corale, concreta, difensivamente tostissima. Marcus Morris prova a rimettersi i panni del LeBron stopper, offrendo garanzie offensive e riuscendo quantomeno ad affaticare James, causandone conseguenti limitazioni a livello di incursioni. In realtà il re appare piuttosto affaticato di suo, pur offrendo una prestazione assoluta ancora una volta, che appare a tratti arresa rispetto ad un contorno spesso imbarazzante, J.R. Smith su tutti. I Cavaliers perdono terreno nella seconda parte del primo quarto, avviato benissimo per la verità da un Kevin Love destinato poi a perdersi con il passare dei minuti, e da lì non si riprendono più. I 10 punti di vantaggio da amministrare sono la regola per i ragazzi di Brad Stevens, e soprattutto in avvio di quarto periodo, quando Boston fatica per molte azioni a trovare la via del canestro, Cleveland mostra tutti i suoi limiti e soprattutto il fatto che James non può essere sempre al 100% e risolvere con una giocata personale i palloni che scottano. Di tentativi di inserimento per i compagni ne prova moltissimi, raramente premiati con l'assist perché al tiro i Cavaliers non ci sono proprio. Dall'altra parte invece i canestri a dietro l'arco arrivano puntuali e copiosi, cacciando così ogni velleità del numero 23 in maglia nera, a volte visibilmente carico di disappunto verso un sistema dal quale sembra garantito che scapperà nei prossimi mesi, qualsiasi siano i risultati finali ottenuti. Il primo match point sarà quindi in Ohio e sarà per i Celtics, che dovranno dimostrare di essere in grado di vincere almeno una gara in trasferta per conquistare una finale che sarebbe insperata e dall'interno della quale sulla carta avrebbero comunque a mio avviso possibilità pari allo zero di successo nell'arco di 7 partite, pur con tutta la grinta che non possiamo far altro che riconoscer loro. Il mio pronostico del giovedì pomeriggio prevede comunque una gara 7 decisiva ad est, perché per quanto mi abbia impressionato l'atteggiamento inevitabile di LeBron in gara 5, appare impossibile a tutti e quindi anche a me che non determini un risultato positivo per i suoi in quella che potrebbe essere la sua ultima gara di sempre alla Quick Loans Arena con la maglia dei Cavs. Il cuore mi dice che esiste una chance per cui James domini le prossime due gare, conquistando l'ottava finale consecutiva in carriera. Quello che i miei occhi però hanno visto in gara 5 mi suggerisce che, anche forzando una gara 7, Boston in casa è troppo compatta ed a livello di sistema di gioco troppo superiore per non meritare la finale a scapito di Cleveland. Piccolissimo pronostico personale rispetto all'Ovest: a chiusura di questa puntata si giocherà gara 5 in quel di Houston. Io credo che Golden State vincerà sia questa partita che la prossima in casa, chiudendo la serie in 6 partite, nonostante tutto il bene dimostrato da Harden, Paul e compagni in gara 4 ad Oakland. Un vantaggio campo che ad oggi non è stato un fattore si confermerebbe superabile secondo la mia previsione, che comunque, in caso invece che Houston vincesse gara 5, confermerebbe Warriors campione ad Ovest in 7 gare. Chiunque di queste due squadre passeggerebbe comunque contro Boston in finale, magari chiudendo 4-1 giusto per dare un po' di soddisfazione agli avversari. Solo in caso di una finale Houston-Cleveland forse potremo vedere una serie di almeno 6 partite, ma le possibilità sono a mio avviso più che remote. Ne parleremo la settimana prossima, dove decisamente presenteremo le finali NBA in avvio. Per aggiornamenti giornalieri seguite la nostra pagina Facebook, che si chiama appunto NBA Week. Per ascoltarci gli appuntamenti sono sempre gli stessi: venerdì sera su Radio Big World in streaming ed in podcast nel loro sito, sabato mattina sul canale YouTube del mitico Belli 13, domenica pomeriggio in streaming su Radio Valdarno ed in podcast nel loro sito. Ci risentiamo tra 7 giorni con NBA Week.